bilateral meeting with President Hu Jintao. Infine, il bilaterale più importante. Fra un paio d'ore, qui a Washington, Barack Obama incontrerà il leader cinese Hu Jintao. Ecco, il fatto che Hu sia venuto personalmente a questo vertice, insomma, dà ovviamente un contesto di grande importanza politica e in qualche modo di speranza alla Casa Bianca che poi anche Pechino possa in qualche modo trovare un accordo. Obama parlerà anche di valute, però sappiamo che su questo tema Pechino preferisce muoversi in modo autonomo, non vuole l'influenza degli Stati Uniti. Se dovrà annunciare una rivalutazione dello yuan, lo farà per conto suo nei suoi tempi e al momento giusto, non in questo contesto. Ecco, però, se il presidente americano dovesse ottenere l'adesione della Cina alle sanzioni contro l'Iran, beh, avrà superato un'altra pietra miliare importantissima nella sua agenda di politica estera. Vi ricordo che arriverà fra poche ore anche il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi in rappresentanza dell'Italia. Per noi questo vertice è molto importante perché abbiamo degli importanti programmi di sviluppo nucleare approvati dal governo. Finmeccanica, Enel sono già in uno stadio molto avanzato per progettare e poi costruire centrali nucleari in Italia, e dunque l'Italia farà a questo vertice di Washington la sua parte. Ma non deve essere pasta. Amore, se tu vuoi avere dish of macaroni. That's what we had, never pasta. Bene, cambiamo argomento. La voce che avete sentito è quella di Pasquale Caputo, detto Pat Cooper, a un programma televisivo anti-gourmet sulla cucina italiana qua in America. Il programma si chiama Mangia Mangia. Qui dice: mia madre non diceva mai pasta, mia madre diceva ci facciamo un piatto di macaroni. Beh, insomma, gli americani ci adorano. Mangia Mangia è oggi il titolo di un articolo del New York Times, il più letto e inviato del giornale, che dà notizia di un gruppo che organizza cene e colazioni per turisti in case private italiane. Basta con la cucina gourmet, via con i piatti familiari. Su questo, come dicevo, gli americani sono impazziti. Il reportage parte dagli Abruzzi, spero che ci stiano sentendo, da un paesino di 420 persone che si chiama Abbateggio, vicino al Parco Nazionale della Maiella. La cuciniera familiare è Nicoletta: spaghetti alla chitarra con ragù di agnello, pecorino, prosciutto, costolette di agnello, patate arrosto, cavoli saltati e cerasolo d'Abruzzo, caffè corretto con la centerba. L'organizzazione si chiama Home Food, l'organizzazione che organizza queste colazioni, di Bologna. L'associazione costa 3,5 euro per gli stranieri, 35 euro per gli italiani. I pasti fra i 35 e i 40 euro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, a proposito di nucleare, che poi è il tema dominante ormai da qualche giorno, vi lasciamo con la musica di una banda di Teheran che ha trovato rifugio a Brooklyn, perché in Iran il rock è bandito, sono scappati. La band si chiama Hypernova e è fuggita 3 anni fa, e il loro album con cui hanno debuttato negli Stati Uniti è uscito pochi giorni fa, il 6 aprile, letteralmente pochi giorni fa. Si intitola Through the Chaos. Ascoltiamo il singolo Fairy Tales, Fiabe. There's a little girl that I am madly in love with. She's only 17 and she's testing my patience. She knows what I want and I know what she needs. We both know that we should not proceed. Father, please forgive me for I've sinned again. Mario Platero vi saluta da Washington e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!